It's already mango say it again. Oh yes, say it already mango say it again. It is a simple mathematics for all your leaders. No justice equals no peace. E nemmeno l'inferno ormai ci può fermare, sono le 19.02 minuti primi, siete in ascolto dalle web frequenze di Radio Default, andiamo in onda con la consueta puntata di Hope's Connecting Fights, la trasmissione sulle lotte ambientali, del lavoro e insomma su ciò che si muove nell'area antagonista ai Castelli Romani in Italia e ovviamente nel mondo, perché noi siamo la radio locale a vocazione universale. E ricordiamo subito i contatti della radio www.radiodefault.it, in cui potete trovare il nostro palinsesto, le repliche delle nostre puntate o anche le nostre iniziative, insomma ne facciamo parecchie, sono tante, sono belle e servono a far sopravvivere anche questa radio. Vi è poi la nostra pagina Facebook Radio Default, in cui potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che stiamo trasmettendo. E infine potete sempre venirci a trovare live nei nostri studios di Genzano di Roma, via Guido Baldi 56, dove potete interagire con la redazione anche in diretta, potete insultarci dallo blò della nostra sala di regia, o magari potete venirvi soltanto a prendere una birretta e darci qualche spiccio, visto che questa radio non campa di aria, ma campa grazie alle sottoscrizioni di chi la vive, chi la ama e insomma chi l'ascolta. Quindi iniziamo con questa consueta trasmissione, partiamo come al solito dagli aggiornamenti locali perché e parliamo in questo caso di lotte ambientali, perché lotte ambientali e repressione, visto che questo venerdì 4 luglio si terrà l'udienza ad Adriano e Gianluca, due compagni arrestati lo scorso settembre, accusati di banda armata, terrorismo insomma, su cui si è stato costruito un teorema giudiziario e anche mediatico di livello nazionale, che li ha visti chiusi in carcere ormai dallo scorso, mi pare, 19 settembre. Ricordiamo, Adriano e Gianluca sono stati accusati di azioni di danneggiamento a dei mezzi della discarica di Roncigliano, danneggiamenti a vetrine di banche, di bancomat e altri danneggiamenti a pellicerie e a distributori legati a Leni, che insomma sappiamo bene tutti cosa combina in giro per il mondo. Insomma, danneggiamenti che insomma, se fossero stati accollati danneggiamenti a quest'ora sarebbero liberi insieme a noi, e invece è stata utilizzata questa accusa di terrorismo. Accusa di terrorismo che li ha visti, li vede appunto in carcere in regime di alta sicurezza. Regime di alta sicurezza che prevede l'isolamento, restrizione delle possibilità di socializzazione con gli altri detenuti e via dicendo. E questo è un filo rosso che ormai lega la repressione contro le varie lotte ambientali. Non si parla più, ormai non si cerca più di gestire socialmente e politicamente i dissensi che si vengono a formare sulle creazioni di queste grandi opere, che possono essere il treno in Val di Susa o l'inceneritore di Albano o qualsiasi altra grande opera che viene appunto calata dall'alto. E quindi si va a puntualmente ad utilizzare questa accusa di terrorismo, un'accusa che da una parte tende a delegittimare le lotte, per insomma far vedere che chi protesta contro queste grandi opere non è un cittadino, un compagno interessato al bene, alla salute e al bene dei nostri territori, ma appunto vengono accusati di essere appunto dei folli sovversivi e su cui poi appunto i giornali e gli altri mezzi di comunicazione poi danno grande eco a queste falsità e queste menzogne. E quindi e dall'altra si cerca anche di tagliare le gambe alle lotte, a creare paura in chi le lotte le fa, perché un anno di carcere ancora in attesa di giudizio credo che sia un elemento che spaventi tutti, anche i più coraggiosi ed arditi difensori delle proprie terre, ed appunto un trade union che lega appunto i Castelli Romani alla Val di Susa, alle varie lotte ambientali che appunto vengono represse in questa maniera. Repressione che però funziona appunto a senso unico, perché noi ricordiamo sempre che questi presunti terroristi, come dicono i ROS e le aule giudiziarie e i pubblici ministeri, è gente che appunto si spende da anni per difendere un territorio, mentre dall'altra parte le nostre controparti in realtà sono dei veri terroristi anche conclamati, perché rimanendo nel nostro piccolo dei Castelli Romani abbiamo alla sbarra il buon Manlio Cerroni, che è quello che l'inceneritore lo voleva costruire e che viene accusato di traffico di rifiuti e di gestione illecita della discarica e di sottrazione di fondi pubblici, su cui non mi pare già stato condannato su questo. Ma pensiamo anche, andando sull'internazionale, arriviamo a Colleferro, dove è ancora in corso un processo sulla gestione criminosa dell'inceneritore. E se andiamo invece appunto al famoso esempio, andiamo proprio sull'intercontinentale, la Val di Susa, abbiamo ad esempio il buon Pizzarotti, che è una delle ditte che costruisce quel buco inutile nelle montagne valsusine, che ad esempio da Napoli è stato estromesso dalla gestione del centro direzionale di Napoli per collusioni con la Camorra. O anche il fatto, ad esempio, che molte ditte che lavorano nel cantiere sono legate ad ambienti malavitosi e via dicendo. Quindi, insomma, una acredine quella dei pubblici ministeri, che è a senso unico, perché come si va a reprimere duramente il popolo che difende la propria terra, dall'altra non si va così duramente a incidere su chi invece ha effettivamente devastato o sta devastando i territori. Ma d'altronde ogni tanto però arrivano buone notizie, perché ogni tanto gli apparati dello Stato sono talmente solerti che spesso vanno anche troppo avanti quello che lo stesso Stato vuole. Prendiamo un articolo da notav.info, il portale di controinformazione del movimento Notav, che riporta la sentenza della Cassazione che di fatto smonta i teoremi giudiziari che vogliono i Notav, che vorrebbero vedere i Notav come terroristi. Abbiamo detto, i Notav sono all'avanguardia in queste cose, sono appunto, subiscono proprio l'avanguardia della repressione nel nostro paese, e in questo caso la Corte di Cassazione ha dichiarato che condotte illecite con motivazioni politiche, come può essere un assalto al cantiere, un assalto al cantiere o un taglio delle reti, un lancio di Molotov o la distruzione di un compressore, non possono essere assimilate al terrorismo. Il terrorismo è un'altra cosa, il terrorismo è un attacco innanzitutto o a singoli individui o gruppi ben identificati, con finalità più vaste di sovversione dell'ordine sociale e politico dello Stato. E la Cassazione ha detto proprio questo, che questi atti, sebbene siano legalmente illeciti dal punto di vista dello Stato di diritto italiano, non possono essere assimilati al terrorismo. Noi appunto rimandiamo all'articolo di notav.info, che spiega dettagliatamente in sei punti tutta la sentenza, oltre che a pubblicare proprio la sentenza per intero. E dal nostro piccolo, cosa possiamo fare a sostegno di Gianluca Adriano? Beh, oltre a continuare le nostre mobilitazioni contro le nocività nei nostri territori, quindi a non farci spaventare dai teoremi giudiziari, possiamo firmare un appello che chiede due cose sostanzialmente. Il far cadere queste accuse di terrorismo e di banda armata e di giudicare chi ha messo alla sbarra oggi per ciò che ha veramente commesso, in questo caso il danneggiamento, perché questa è la fattispecie del diritto che gli viene contestata, e soprattutto l'opposizione dei cittadini democratici, perché non c'è bisogno di essere rivoluzionari, basta essere sinceramente democratici, a come questo processo sta venendo gestito, perché attualmente Adriano e Gianluca, oltre a subire lo scandalo mediatico, l'arresto sul posto di lavoro, a dover subire il sistema di alta sicurezza, gli sta venendo anche negato il diritto alla difesa. Che significa? Significa che loro al processo non possono essere fisicamente presenti, con la scusa che costa troppo portarli da Alessandria e Ferrara, che sono i carceri dove sono attualmente rinchiusi, i carceri di alta sicurezza in cui sono attualmente rinchiusi, non costa troppo trasportarli a Roma, alla sede del processo, e quindi faranno seguiranno l'udienza via Skype o comunque in teleconferenza con gli avvocati a Roma, quindi senza possibili poter parlare con gli avvocati, senza poter vedere i propri accusatori in faccia, e senza anche la possibilità di vedere di stare in un'aula di tribunale dove magari c'è anche qualche amico e qualche compagno che sta là a portargli il loro supporto. Questa è una cosa inaccettabile. Se proprio c'hanno i problemi, lo Stato ha dei problemi economici, non li mettesse in carcere a Ferrara e ad Alessandria, li portasse in carcere a Roma, in un posto vicino, dove magari è anche più facile per le famiglie andarli a trovare. E quindi voi potete trovare questo appello in solidarietà con Gianluca e Adriano sul sito di Occupazioni Precari Studenti, che è occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. E quindi noi speriamo in un vi terremo aggiornati su come sarà andata l'udienza di venerdì, sempre da questi microfoni. E ora lascio la parola al mio compare. Compare proprio di, diciamo così, di vivande e via discorrendo. Vabbè, cerchiamo un po' di sdrammatizzare, visto che comunque il tema che abbiamo trattato adesso è per noi particolarmente increscioso e ci fa sentire, insomma, ecco, sempre una stretta al cuore quando parliamo di Gianluca Adriano. Quindi sicuramente un abbraccio solidale nei loro confronti, come abbiamo sempre fatto. Cambiamo sicuramente argomento, parliamo un po' delle varie vicissitudini che si sono susseguite a seguito dei funerali di Ciro Esposito. Crediamo che pure qui purtroppo la cattiva informazione l'ha fatta da padrone sull'episodio dell'assassinio di Ciro Esposito. Verosimilmente si è prodotta un po' il solito giro di dichiarazioni che hanno né più né meno cercato di nascondere tutta una serie di aspetti della vicenda, solo per poi fare la solita chiamata all'ordine, alla possibilità quindi di avere degli strumenti dal punto di vista giudiziario più efficaci, più forti nel poter reprimere una serie di fenomeni come possono essere quella della violenza degli stati. Quello che è accaduto a maggio sicuramente è ancora molto poco chiaro. Una cosa che è molto chiara è che questa volta abbiamo notato, e ci sono un po' di articoli anche in giro per la rete su cui abbiamo speso qualche minuto per leggere, perché crediamo che siano tra i pochi che forse hanno cominciato a mettere un po' di questioni in fila su quello che è poi la vicenda, l'assassinio di Ciro Esposito, ovvero come i media hanno questa volta un po' ribaltato alcuni ruoli, ovvero sia su fatti di cronaca nera solitamente, diciamo, il presunto assassino è sempre quello su cui viene gettato l'attenzione maggiore. Stavolta non è stata così, stavolta è stata la vittima su cui c'è stata la maggiore attenzione, quindi chi è Ciro Esposito, da dove viene, perché è di Scampia, perché è partito, è andato lì a vedere la partita di calcio del Napoli, perché è passato proprio lì davanti, allora forse sono stati loro a aggredirli, senza però stavolta parlare del tanto conosciuto purtroppo alle cronache romane, non solo da qualche anno, del Giannotto Gastone, un noto neofascista. Non solo alle cronache romane, ma anche castellane, insomma. Sì, noi purtroppo abbiamo avuto modo di incontrarlo ai funerali di Priebke. Per cui quindi un personaggio che, ecco, sicuramente se è noto a noi, sicuramente è noto anche alle forze dell'ordine. Stranamente hanno fatto passare un bel po' di tifosi napoletani in quella giornata proprio lì vicino al suo posto, gestito tra l'altro ormai da tempo da un'associazione d'estrema destra. Non si parla proprio di Gastone, ma chi è sto Gastone? Effettivamente Gastone, oltre che ricordarlo per la sua passione politica, quindi più volte manifestata, l'abbiamo anche visto trafficare con la Giunta Alemanno fino a qualche tempo fa. Spesso e volentieri era lui insieme a altri suoi amichetti da stadio, uno su tutti è Giuliano Castellino, altro noto esponente che anche lui ha partecipato ai funerali di Bribke. E, ecco, personaggi di questo tipo hanno spesso e volentieri accompagnato Alemanno nelle proprie uscite pubbliche all'interno della città di Roma, hanno avuto sostegno economico, hanno avuto degli spazi pubblici. Il CIAC infatti è stata un'assegnazione da parte della vecchia giunta Alemanno all'associazione Trifoglio, oggi lì ha anche sede il Movimento Sociale Europeo. Per cui uno squarcio su quella che poi è la realtà di chi poi ha in qualche maniera sparato, poi sicuramente vorremmo capire pure noi chi è che ha sparato e tutto quanto, perché poi quando purtroppo ci stanno le armi da fuoco in mezzo, spesso e volentieri abbiamo visto che le provenienze sono sempre abbastanza strane, voglio dire, no? Ecco. Tra l'altro ricordiamo che lì vicino proprio sempre al CIAC dove è avvenuto la sparatoria c'è un poligono di tiro dove spesso e volentieri anche le stesse forze dell'ordine vanno lì a fare le loro esercitazioni, per cui crediamo che, ecco, come al solito c'è una strana commistione tra neofascisti e forze dell'ordine che puntano a probabilmente a d'utilizzare fatti come questi poi per sicuramente distogliere l'attenzione su tutta un'altra serie di problematiche che invece stavano venendo fuori proprio a ridosso della finale della Coppa Italia, dove era molto il risentimento nei confronti delle forze dell'ordine, dei loro atteggiamenti particolarmente violenti nei cortei e non solo, negli sgomberi e via discorrendo. Si stava parlando quindi della possibilità di avere i numeri identificativi per chi fa servizi d'ordine durante cortei e manifestazioni pubbliche. Dopo questo episodio forse qualcuno un obiettivo lo ha raggiunto, che è proprio quello di non far più parlare l'opinione pubblica e anche la politica di problematiche di questo tipo. E invece, ecco, adottare un nuovo pacchetto sicurezza che si già più volte preannunciato, ancora lo devono votare al Consiglio dei Ministri, dove una su tutte, lo vorremmo ricordare, si parla anche di DASPO per manifestazioni pubbliche, per cui mi pare che l'obiettivo forse per qualcuno è stato raggiunto. Ciò non toglie che rimane tutto il dolore per quello che è accaduto chiaramente a Ciro Esposito, un ragazzo che viene dal quartieri difficili di Napoli, tra l'altro il papà anche impegnato nelle lotte contro le discariche e gli inceneritori in quel territorio, quindi persone che cercano di tirare avanti, e purtroppo su di lui invece si è scatenato veramente quanto di peggio oggi l'informazione italiana può produrre. Quindi sicuramente non possiamo pure noi accodarci con un saluto chiaramente a Ciro e alla sua famiglia, ai suoi familiari, ai suoi parenti, però allo stesso tempo crediamo che su questa storia ancora non è stato detto tutto, anzi forse siamo soltanto all'inizio. No, ma è anche evidente come il fatto di non voler parlare di Gastone è stato utilizzato poi infilando anche gente che non c'entrava nulla, ricordiamoci tutto lo scandalo mediatico di Genia Carogna, che insomma magari non sarà proprio un bel personaggio, ma che di fatto in quella vicenda non c'entrava nulla se non è per essere il capo ultra del Napoli, e su cui si è creato come se quasi avesse, esatto, sì, come sì, se fosse quasi l'avesse ammazzato lui, Ciro. Esatto, quasi se fosse stato lui un simbolo. Ma su questo noi invitiamo a venire alla bibliotechina Sada Shakuro, dove c'è un libro di Valerio Marchi, La sindrome di handicap, che questo tipo di dinamiche tra l'altro le affronta proprio bene, quindi magari pure diamo pure un consiglio di per la lettura. Un'ultima cosa, questo vario fascistume purtroppo ultimamente abbiamo visto che Riciccia ha fatto un bel convegno proprio a Roma, abbiamo visto quelle fantastiche immagini di Borghezio che parla insieme a delle chiaie, parlano di rivoluzione nazionale. Che delle loro... chiaie, meglio noto come Ercaccola. Esatto, viene apostrofato come capitano da Borghezio in questo comizio svolto in uno dei vari incontri che spesso e volentieri fanno d'estate le cosiddette forze neofasciste, che di volta in volta cercano di riunificarsi ma che poi di volta in volta si accapigliano al primo appuntamento pubblico, fortunatamente. Però ecco, diciamo, questo vario fascistume che ha pure sostenuto in campagna, nelle ultime campagne elettorali, Borghezio, probabilmente è quello stesso substrato, diciamo così, culturale o qualche frequentazione sicuramente in comune con il vecchio Gastone. E quindi, beh, ricordiamo, diamo sempre un abbraccio alla famiglia di Ciro. Noi facciamo un piccolo stacco musicale, visto che in genere vengo in su, questa voce viene insultata per riprendere il repertorio del grande musicale del grande Sud Italia. Io passo al grande, alla grande Sud America. Questa è Ana T. Hughes, che canta con la rapper palestinese Shadia Mansour, Somos Sur, siamo il sud. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Somos E ritorniamo in onda con Ops Connecting Fights, la trasmissione di Radio Default sulle lotte ambientali, e, insomma, sulle lotte antagoniste in Italia, nel mondo e soprattutto ai Castelli Romani. Continuiamo con le notizie da quasi dal locale, andiamo in quel di Roma, dove ieri c'è stata un po' di subbuglio, tra l'altro notizie in pieno svolgimento, quindi cercheremo di dare le notizie più precise possibili. Infatti lunedì sera sono stati trovati i tre coloni rapiti dalla resistenza palestinese in un insediamento illegale, secondo il punto di vista internazionale, nella Cisgiordania. Sono stati trovati morti l'entità sionista sta portando avanti una serie di rappresaglie che andavano ormai avanti da 18 giorni e le hanno intensificate. Nella notte hanno bombardato una trentina di volte la striscia di Gaza, hanno proseguito la catena di arresti e assassini nella West Bank. I coloni stanno uscendo matti con azioni di ritorsione che hanno visto oggi il sequestro, l'uccisione e la brucia e la messa alle fiamme del corpo di un giovane palestinese, di un giovane bambino palestinese di Al-Quds. E ieri i solidali con il popolo palestinese hanno deciso di scendere in piazza per ribadire la loro contrarietà a queste azioni di ritorsione che l'entità sionista sta portando avanti, con la scusa della morte di questi tre coloni, e manifestazione che però è stata negata dalle forze dell'ordine e che ha visto comunque scendere in piazza qualche compagno solidale, che è stato prontamente accolto dalle squadracce, possiamo chiamarle, appartenenti alle squadracce sioniste appartenenti alla comunità ebraica romana. Il bilancio è attualmente per quella manifestazione di un ragazzo ferito, un ragazzo di 27 anni che è stato aggredito mentre si trovava a Piazza Venezia e stava raggiungendo la manifestazione sotto la colonna Traiana. È stato aggredito da cinque squadristi della Lega Ebraica di Difesa che hanno aggredito lui e una giornalista che era con lui, per poi rifuggire da dove erano venuti. E quindi appunto il ragazzo è stato trasferito al Fate Bene Fratelli in codice giallo, avrà 25 giorni di prognosi questo, diciamo, che è servito come scusa alla polizia per intimare ai solidali col popolo palestinese di andarsene, e ce ne siamo dovuti andare. Vi rimandiamo al comunicato dei giovani palestinesi in Italia, che hanno diramato un comunicato sulla vergognosa azione squadristica di ieri ricordano che comunque si continuerà a scendere in piazza in solidarietà con il popolo palestinese da 67 anni sotto occupazione e a sostegno della resistenza palestinese, che ha il diritto di lottare per liberare la propria terra. Quindi l'appuntamento sarà lunedì prossimo, sempre alla colonna Traiana, contro l'aggressione alla Palestina e contro le intimidazioni sioniste in questa città, a sostegno dei palestinesi di Gaza, di Nablus, di Gerusalemme, di Jenin, di Acca, di Haifa o del Negev. E soprattutto si chiederà anche al sindaco Marino di cominciare a prendere posizione su questi episodi di violenza squadrista sionista cui mi permetto di aggiungere: nessun politico si è finora pronunciato prendendo le distanze o chiedendo che la politica o le istituzioni facciano altrettanto, eh? No, figurati, assolutamente no, quello è un bel bacino elettorale, perché alienarselo. E anzi, mi sembra che si siano superati i limiti sotto ogni aspetto, perché sono anni ormai che partono dal portico di Ottavia squadracce che aggrediscono magari o i manifestanti che scappano dalle cariche della polizia, o chi magari passa all'interno del quartiere ebraico e non è vestito in maniera consona. Infatti non è già, purtroppo è l'ennesimo episodio, dobbiamo dire, purtroppo. L'ennesimo, l'ultimo è stato il 25 aprile scorso, in cui chi stava manifestando a sostegno per ricordare la nostra lotta di liberazione partigiana e a sostegno dei nuovi partigiani che in Palestina stanno lottando per liberare la propria terra da un'occupazione che non era né più né meno differente da a quella nazista che abbiamo vissuto fino al 1945, sono stati là di nuovo brutalmente aggrediti da queste squadracce fasciste e sioniste, e soprattutto Roma rimane questa grande anomalia, non lo so, forse ricorda un po' Beirut, dove c'hai un quartiere intero che viene, in cui la legge non esiste, in cui la legge è delegata ai suoi abitanti appartenenti a una setta religiosa, con connotazioni, o almeno parte di quegli abitanti, quella setta religiosa connotata politicamente come sionista e quindi nazionalista, cose che, non so, a me ricordano i quartieri a sud di Beirut, dove quando vai nella zona sciita la polizia libanese non entra più e trovi checkpoint di Hezbollah. Solo che Roma non è Beirut, in teoria saremmo uno stato democratico, e in uno stato democratico è impossibile che ci siano zone franche, appunto, per sette religiose e politiche che soverchiano lo Stato e le leggi dello Stato. Quindi rilascio di nuovo la parola al mio compare. Ovviamente l'appuntamento è sempre, ribadiamolo, lunedì prossimo alla Colonna Traiana alle 6 con la resistenza palestinese fino alla liberazione e al ritorno. E dopo i fatti incresciosi di ieri torniamo invece alle notizie delle oggi. E due sono le buone notizie, ogni tanto diamo pure qualche buona notizia, e riguardano praticamente un paio di condanne da parte della Corte dei Conti, e una riguarda gli assassini di Federica Aldovrandi, e per cui la decisione della Corte dei Conti ha praticamente disposto un sequestro conservativo dei beni immobili dei responsabili dell'assassinio di Federica Aldovrandi, oltre anche il sequestro del quinto dello stipendio. Questo perché? Perché chiaramente i quattro praticamente condannati devono praticamente risarcire di 1.870.000 euro lo Stato per i danni erariali, dal momento che poi lo Stato si è dovuta chiaramente far carico del risarcimento ai familiari di Federica Aldovrandi, che praticamente è stato pari a 2 milioni di euro. Ora, chiaramente questo è il provvedimento, praticamente è stato notificato proprio questi giorni, e però chiaramente ancora non è definitivo, perché è sicuramente già esecutivo il sequestro praticamente del quinto dello stipendio. E poi adesso dobbiamo vedere cosa succederà invece per quanto riguarda il prossimo 9 luglio, dove la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna si esprimerà in maniera definitiva proprio rispetto al sequestro conservativo. E quindi, per si dovesse andare tutto come dovrebbe andare, dopo il 9 luglio i vari poliziotti che hanno ucciso Federica Aldovrandi dovranno a ognuno di loro versare ben 467.000 euro. Chiaramente la mamma di Federico è stata sicuramente più che soddisfatta di quanto è accaduto. Invece i sindacati di polizia anche stavolta hanno pensato bene di dire una delle loro castronerie, e quindi è un provvedimento eccessivo, mi sembra un accanimento. tirano fuori la questione dei 1500 euro al mese. Beh, ci viene un po' da ridere, perché la questione dei 1500 euro al mese, che possiamo anche comprendere, però forse la dovrebbero tirar fuori quando servirebbe, non quando si parla poi della morte di un ragazzo di appena 18 anni. Veramente è un utilizzo strumentale delle questioni sacrosante dei diritti del lavoro, poi per in realtà nascondere tutta una serie di responsabilità e di un ruolo che purtroppo da diversi anni a questa parte le forze dell'ordine hanno nel nostro paese. E non è l'unica buona notizia, sempre sulla stessa lunghezza d'onda, però andiamo per posso un posso dare un attimo un commentino su questa cosa molto breve. Più che il fatto che questi debbano dare quanta parte del loro stipendio dovranno ridare alla mamma di Aldo Randi, è allucinante che questi abbiano ancora uno stipendio, insomma. Sicuramente la cosa migliore sarebbe stata tirarli fuori dalle forze dell'ordine, perché persone di questo tipo hanno palesemente dimostrato di non essere in grado e all'altezza di svolgere quel tipo di lavoro. E stessa questione riguarda 5 poliziotti, dobbiamo risalire al luglio del 2001, di 13 anni fa, quando a Genova ci fu una delle più grosse mattanze che purtroppo ricordiamo nel nostro paese durante le manifestazioni pubbliche. E anche qui praticamente ci sono state una serie di condanne e ad un risarcimento pari a 1.120.000 euro per 5 poliziotti, con cui il procuratore regionale della Corte dei Conti di Genova stavolta quindi chiede a 5 appartenenti alla Polizia di Stato, quindi anche loro, nonostante aver dimostrato di essere stati protagonisti di violenze gratuite in manifestazioni pubbliche, ancora svolgono la loro attività di agenti di polizia, e comunque sono stati condannati anche loro quindi a risarcire lo Stato, perché anche in questo caso lo Stato chiaramente ha subito un danno. Noi mi verrebbe di fare una pessima battuta, non vorrei che questa solerzia oggi sia più che altro derivata, più che da uno stato di diritto, da una spending review che si fa sempre più pesante, quindi non vorrei che... Pecunia non olet. Comunque, per ritornare al fatto, allora, i fatti per cui viene chiesto il risarcimento del danno erariale sotto forma di danno d'immagine sono relativi agli arresti illegali e alle violenze commesse il 21 luglio durante una manifestazione davanti alla questura. Oltre ai falsi verbali, le minacce, le violenze, l'episodio simbolo è quello dell'allora 17enne Marco Mattana, tra l'altro ragazzo di Ostia, picchiato dai poliziotti e letteralmente calciato da Perugini, nonostante il ragazzo avesse già un occhio gonfio come un melone. Mattana ritirò la querela dopo un risarcimento di 30.000 euro. Vile aggressione la definisce il procuratore Boggetti. La quantificazione del danno d'immagine sarebbe stata di 1.500.000, ma è stata decurtata del 30% perché la Corte ha tenuto in considerazione le condizioni in cui gli appartenenti alle forze dell'ordine si erano trovati ad operare, condizioni che non sono certo sufficienti ad escludere le loro gravi responsabilità, ma che devono essere pesate insieme a tutti gli altri elementi per addivenire ad un'equa determinazione del danno in sede di valutazione, appunto equitativa nel senso etimologico del termine. Quindi nell'atto di citazione, quindi in cui si chiede ai giudici la riparazione economica, il procuratore contabile ricorda che per gli episodi contestati in sede penale gli imputati sono stati condannati per alcune contestazioni, mentre altre sanzionate in primo grado sono poi cadute in prescrizione. Quindi non è proprio una condanna piena. In caso la sezione giurisdizionale della Corte ritenesse applicabile una recente modifica di legge che non consente la contestazione del danno erariale in assenza di condanna, Boggetti annuncia che solleverà un'eccezione di incostituzionalità chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. quanto agli imputati, nelle audizioni svoltesi nei mesi scorsi hanno sostanzialmente sostenuto l'improcedibilità dell'azione radiale per aspetti tecnici, tra cui risarcimento versato a Mattana. Perugini, proprio su questo episodio, ha ribadito che probabilmente, sopraffatto dall'attenzione, ho compiuto un gesto inconsulto che si può vedere dai filmati e di cui non vado fiero. E beh, credo che non ne dovrebbe andare fiero lui, ma anche buona parte di chi ha condotto le operazioni di gestione di ordine pubblico in quelle ormai famose e fatidiche giornate di Genova. Giornate cilene che tra l'altro ci hanno confermato che ok, abbiamo delle mele marce nella polizia, ma a forza di mele marce qua è guastata tutta la Val di Non. Come dice qualcuno, il pesce puzza dalla testa. Appunto, e quanto puzza. E noi ci rilassiamo un po' le corde vocali, vi lasciamo un altro stacco musicale, questo è il rapper, tunisino Weldel 15, che canta una canzone che gli è costata 3 anni di carcere e si chiama Bulisia Club, i poliziotti sono dei cani. شدوني على السلك عدوني على الزرطة بكاو الميمة هزوني ربطي يباطة في قالب غلطة حطوني في وردة تونس نعطيها وردة الحكومة تاخد كتلة اعطيني الشمع عالسريع عم حبس ما نشدوش كان جاي بابا اسمه بوسبيع نحب نتوب ناحية الدروب من المكتوب الحبس ما نشوفوش كان جيب ولدي سليم جيبوك يا رئيس يا محامي يا بوليس يا مستشار كيما بكيت وبابا بوك ما شعل فيه النار غير الحومة قندهار الكاس فاضي بديلي صار شيطان رجيم يديلي مين ابو عياط خدموا بيا السر والنار هزوني للجبانة البارح بيت في الدار الليلة بيت في زنزانة امي ما تبكيش ما كبسونيش البوليس اللي طيحني امه موكلها لحشيش يسموني سي كلاب وانا اقول بيحمين انا اقول بيحمين ترى قول لي بيحمين البولي سي كلاب البولي سي كلاب البولي سي كلاب البولي سي كلاب امبح يا كلب امبح يا كلب امبح يا كلب البولي سي كلاب امبح يا كلب امبح يا كلب امبح يا كلب البوليس يا كلب شارج سلاحك يا بوليس اضربنا بالكرتوش رانا موتا مقلعين كرت اضربنا ما نحسوش تاخد بطاقة تعريف رانا ما نمدوش في العيد نحب نذبح بوليس من في بلاصة العلاش ورانا في الحبوب جرينا وما شدوناش الرعف الليل لم الكل حومة كحلة باللحناش كانت لوج عالسلطول فوق قيمة تلقهاش جنيراسيون بطل قراية والزطلة ما تبطلهاش هكا نعيشو يا بوليس ما عندنا شي مخبي كرهتونا في السيفيل يعلم بينا كربي انتي تحب تطيحني تركب لي المانو في يدي خرجني من مخك وبربي سيب لي الزبي هذه الحومة يا حنشون تفجع فينا بالسجون لعبك يابس يا قلابس لابس في راسك كرسون في راسك برشا جنون زحمو ذنيك نسمحولك كيما حشيت معايا قبل جيت اليوم باش تركزهولك البولي سي كلاب وانا قول نبي حمين انا قول نبي حمين ترا قول نبي حمين البولي سي كلاب البولي سي كلاب البولي سي كلاب البولي سي كلاب امبح يا كلب امبح يا كلب امبح يا كلب البولي سي كلاب امبح يا كلب امبح يا كلب امبح يا كلب البولي سي كلاب من بوشوش البيت الدوش قلوب حجر ما نخافوش نيك لحنوش اعطيني فرد ما نضربهم بالكرتوش شدوني ولا ما تشدوش ما علم بالي بيه ديما الزات ولوم تكيف حاول باش تخرالي فيه البولي سي كلاب حكاية باينة من المان رجل واحد في الداخلية فاسد وطحان واقف احترام للضباط يا عفات جينيراسيون مسطولين جينيراسيون موبقات كوكايين زبطة وكيتامين ماكم انتوما تجيبوا فيه كل الدروك جاي منين ماكم انتوما تبيعوا فيه توما اللحمة الكبار احنا حطمتونا بالعقار من اللي ولادي صغار ما طولش عليك نعطيك فلاش على بالي صارت ثورة في البلاد يا اخي طلعت من تالي تحتح يا الحكومة مدام الحشية للكرومة دادي كاس ولاد الحومة والجنس المظلومة انتوني سيد كلاب وانا قول بيحمين انا قول بيحمين ترى قول بيحمين انتوني سيد كلاب البوري زي كلاب البوري زي كلاب البوري زي كلاب أبح يا كلب أبح يا كلب أبح يا كلب البوري زي كلاب أبح يا كلب أبح يا كلب أبح يا كلب البوري زي كلاب شدوا فينا على المخدرات توما اللي تجيبوا فيها تبيعوا لنا فيها وتهزونا الحبس البوري زي يا خذات E come cantano i rapper algerini, Bulizia Club, i poliziotti sono dei cani, questa è Oops Connecting Fights, la trasmissione sulle lotte ambientali e del lavoro che si svolgono in Italia, nei castelli romani e nel mondo intero. Passiamo alle notizie internazionali. Veniamo sovrastati da un musichino che chiudiamo, ecco fatto, solo grande spontaneità e mancanza di capacità di utilizzo dei nostri potenti mezzi, solo su Radio Default. Passiamo ora appunto agli internazionali, all'Egitto, con dove riprendono le mobilitazioni, in questo caso parliamo delle mobilitazioni dei lavoratori, che si erano leggermente arrestate, cioè hanno visto quasi un anno di blocco dopo la salita al potere, il ritorno al potere dei militari. E ricordiamoci, l'Egitto ha visto dalla rivoluzione del 2011 ha visto un incremento delle lotte dei lavoratori del più del 300%, con scioperi, occupazioni di fabbriche e via dicendo. E questa appunto la prima da quando è andato al potere i militari e soprattutto la prima da quando è andato al potere con le elezioni farsa dello scorso, del mese scorso, l'ex militare Sisi. E in questo caso noi prendiamo la notizia dal sito internazionale dei socialisti rivoluzionari, una componente rivoluzionaria dell'Egitto post 2011. In questo caso sono stati i lavoratori della Tanta Flax and Oil Company a scendere in piazza sotto gli uffici del governo per chiedere la rinazionalizzazione della loro fabbrica privatizzata e la riassunzione degli operai licenziati. Ricordiamo che nel 2012 questi operai, 1300 di questi lavoratori, hanno vinto una causa in tribunale perché appunto loro hanno fatto ricorso contro questa privatizzazione avvenuta nel 2005, questa fabbrica svenduta a un investitore saudita in un'asta che poi si è rivelata essere pilotata e manipolata, insomma roba non troppo nuova visto che assistiamo alle stesse cose anche in Italia. E il compagno Hisham Fuad dei socialisti rivoluzionari ha intervistato Gamal Othman, uno dei leader della protesta, che dichiara che le politiche del governo sono le stesse di prima, sono cambiate le facce ma le politiche sono rimaste uguali, stanno ancora svendendo le nostre fabbriche e licenziando i lavoratori perché stanno dalla parte degli uomini e degli industriali contro i lavoratori e i poveri. Non solo il governo non ha ancora nominato un rappresentante per gestire la compagnia, che appunto l'anno scorso è stato dichiarato, 2 anni fa è stato dichiarato che dovesse essere ripubblicizzata, ma anche la holding pubblica che detiene la responsabilità della fabbrica ha rifiutato l'opportunità di fare un qualsiasi investimento nella Tanta Flax and Oil Company, che ha risorse per poter operare soltanto per un altro mese. E questa è l'articolo appunto tratto dal sito internazionale dei socialisti rivoluzionari global.revsoc.me, Egitto che sta vivendo, appunto, vede questi lavoratori scendere coraggiosamente in piazza, visto che da alla fine del 2013, da quando è passata la nuova legge contro le manifestazioni, la stretta repressiva si sta stringendo contro chiunque in Egitto manifesti, sia per la dignità, per il pane, per il lavoro, sia anche per chi è accusato, a ragione o a torto, di far parte dell'ex partito politico ormai disciolto dei Fratelli Musulmani. È notizia della settimana scorsa che in meno di un anno il buon l'esercito ha carcerato praticamente 40.000 persone in meno di un anno, e si faceva notare come questo fosse un record superiore a quanto abbia fatto Pinochet in Cile in 17 anni di dittatura. Quindi, non so, possiamo parlare delle fasce olimpiadi. E abbiamo visto, appunto, attivisti condannati a 2 anni di prigione. Abbiamo parlato spesso da questi microfoni di Mayenur El Masri, avvocatessa di Alessandria, ma appunto di tanti altri e tante altre. Ci sono state manifestazioni contro questa legge antimanifestazioni sia in Egitto che in vari paesi del mondo, in Irlanda, a Berlino, a Londra, e via dicendo. Manca stranamente l'Italia, che ultimamente, quando si parla di solidarietà internazionale, più che di solidarietà internazionale, i compagni preferiscono parlare di grandi analisi e complotti geopolitici, magari sostenendo il buon Sisi, che a detta loro ha cacciato i Fratelli Musulmani legati al Qatar. Sisi, ricordiamo, sponsorizzato da Assad in Siria, dall'Arabia Saudita e dagli americani. Ma appunto non solo i manifestanti. È successo che il 23 giugno un tribunale egiziano ha condannato 3 giornalisti della TV Al Jazeera a varie pene che vanno dai 7 ai 10 anni di prigione, con l'accusa di aver aiutato un'associazione terroristica, in questo caso ricordiamo essere l'ex partito politico dei Fratelli Musulmani. Brutti, cattivi, non ci piacciono, ma pur sempre un partito politico. E in questo caso i 3 giornalisti sono Peter Greste, un giornalista australiano, Mohammed Fadel Fahmi, egiziano-canadese, e il produttore Baher Mohammed. E tra di loro, loro sono stati condannati appunto dalla corte, poi sono stati condannati altri 20 giornalisti in contumacia, sempre a condanne di 10 anni. Quindi accusa di aver aiutato i Fratelli Musulmani, di aver dato false notizie mettendo a pericolo la cosiddetta sicurezza della nazione. Uno di questi giornalisti è stato accusato di essere in possesso di un bossolo, di un fucile, un bossolo sparato dall'esercito e dalla polizia egiziana mentre reprimevano le manifestazioni di Piazza Rabah. E quindi questo è un grave vulnus democratico, perché insomma quando si arrestano i giornalisti non è mai un buon segno. E proprio il giorno prima il buon segretario di Stato statunitense John Kerry ha dichiarato che gli Stati Uniti erano pronti a scongelare gli aiuti militari. Ricordiamoci che l'Egitto è uno dei maggiori ricettori di aiuti militari statunitensi. Kerry ha sbloccato questi aiuti che erano stati bloccati dopo il golpe dell'anno scorso, però dicendo che sì, è stato fatto questo sblocco dopo aver anche valutato però lo stato dei diritti umani e dello stato di diritto nel paese egiziano, e che dopo aver fatto questa valutazione il Congresso ha ritenuto di poter sbloccare gli aiuti militari. Il giorno dopo è arrivata questa mazzata, che era solo appunto l'ennesima di tante altre. Noi ricordiamo sempre che Mubarak è stato buttato giù, è stato buttato giù il governo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, è stato buttato giù il governo dei Fratelli Musulmani di Mohamed Morsi, e aspettiamo soltanto che venga ributtato giù anche questo governo. E passiamo a un'altra notizia, forse l'ultima, forse quella un po' più piacevole, quella più esotica, possiamo anche dire anche più esotica. Qua andiamo proprio nell'estremo oriente, vai, nelle zone bazzicate dal nostro presidente Severino. Perché ci arriva questa notizia di cui ancora non l'abbiamo letta oggi, non siamo ancora riusciti a trovare conferme indipendenti nipponiche, perché a Tokyo, nella ordinata e pacata Tokyo, si è svolta una manifestazione che dalle foto è abbastanza pacata comunque, una manifestazione degli antifascisti nipponici. 40.000 persone hanno presidiato la residenza del primo ministro in carica per protestare su varie cose. Ricordiamoci che è al potere ora in Giappone un governo di destra abbastanza estrema, che sta portando avanti una retorica estremamente nazionalistica in chiave anticinese, che, visti i problemi di confine con alcune isolette contese tra il Dragone e il Sollevante, non si esclude che si possa arrivare anche a una piccolissima guerra tra i due fronti. E appunto, proprio contro queste cose sono scesi in piazza gli antifascisti di Tokyo, tokyonesi come si chiameranno non lo so, prevalentemente contro la riforma dell'esercito. Ricordiamoci che dopo la seconda guerra mondiale è stato imposto al Giappone di non avere un esercito, anche perché insomma era l'occupazione dell'Indocina, della Cina e della Corea, insomma hanno lasciato begli strascichi, e proprio ora si sta questo nuovo primo ministro sta pensando di convertire quelle che ora sono delle forze di autodifesa molto limitate a un vero e proprio esercito. I manifestanti hanno ricordato che ricostituire l'esercito significa andare in una situazione di guerra, appunto, a fomentare la guerra, mentre la guerra dovrebbe essere fatta contro coloro che vivono in questi palazzi che stavano presidiando, in questo caso la casa del primo ministro. La gente protestava anche contro il nucleare, insomma, nel paese che ha visto 3 anni fa il disastro di Fukushima, e contro lo sfruttamento capitalistico dei lavoratori, che sono costretti, secondo i manifestanti, a lavorare a ritmi allucinanti fino al suicidio. E vengono questa piccola nota, che appunto ancora deve essere ancora confermata, afferma che vengono pianificate nuove proteste nei giorni a venire. Questa era l'ultima notizia. Noi ricordiamo sono le 20:01 minuti primi. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it, dove potete trovare il nostro palinsesto, le nostre iniziative e le repliche delle nostre trasmissioni, la nostra pagina Facebook Radio Default, dove potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che la radio trasmette, e poi vi invitiamo sempre a venirci a trovare nei nostri studios di Genzano in via Guidobaldi 56 per sostenerci economicamente. Ricordiamo che questa trasmissione è gestita da Occupazioni Precari Studenti, il collettivo della sinistra antagonista e anticapitalista dei Castelli Romani. Ulteriori informazioni li potete trovare sul nostro sito occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. Quindi noi vi diamo di nuovo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 7, sempre su Radio Default. E mandiamo la nostra sigla finale, una storica canzone del movimento rivoluzionario operaio, Maracaibo di Luisa Colombo.